No, però alla fine mi contano anche la scuola in inglese, non si può. Ah, e poi con lei di nuovo, ma... Ah, io che la sono qua, sono sussi. Ah, ok. Volevi? Yeah.